Clicino, clicino, ogni cosa giace, tutto tace. Che pace, che pace. Odi, itia, mamma, salò. Salano, salori, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Mamma, rani, cori, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Odi, amore, tulli, tulli, tulli, tulli, pam. Delizioso cuore, tutti i sogni miei ti giungerà. E di me ti parleranno. I meravigliosi tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, tulli, parlano tra loro il tulli, tulli, tulli, tulli, pam. La luna di lassù dalla cupola blu volge gli occhi lì in giù, udendo questa canzone il suo bianco faccio. Tulipan, tulipan, nel cantar questa canzone. Le tulipan ci sembrerà tre tulipan.